canale 10, c'è qualcuno? Attenzione, 10. C'è nessuno? Anthony. Attento, Antonio Grazioli. C'è la Cucca, tu sì. Ciao, già. Uè. C'è nessuno stasera, cazzo, 3 ore già vendi, non chiamo, non c'è nessuno. Ma ti ho risposto poco fa, pensavo che era ancora in ascolto. No, io ho visto che non rispondevano e ho girato. E mi sono andato a fare un po' di ascolto. Detto facile, sì. KK. Cosa c'hai? Il K? No, neanche Antonio Grazioli è entrato ancora. Antonio Grazioli? Cos'è l'antenna si può comparare? Il Bazumbè. Grazie, è appena bulbo, è una Grazioli. Grazioli, si chiama Grazioli perché in continente la chiamano Grazioli. Solo di bulloneria che s'antenna, voi ti fateci di gabu. Ma io me la vendo, mi adesso è partita oggi. Ammazzo, controllo, se è tutto a posto, faccio il video, strumento alla mano e a poco in vendita, cosa me ne posso? Ma te l'hai comprata? Sì, una usata. La 5 ottavi, quella con il radiale però. Quella lì. Quella che va meglio, quella lì, quella che è radiale 5 ottavi. E che non ti arrabbiati? Cosa me ne posso? Ma. Infatti, tanto ne guarda, l'ha piazzo giusto per darti soddisfazione tra una e l'altra. Ma adesso non ce l'hai? No. Gli ho mandato anche il video, no? Perché lui era convinto, cazzo, fatti un bel di più, Guido, là. Gli ho detto, guardati questi video, c'è un punto S di differenza. Cosa pensi che vi sia da una Game Master alla Grazioli? Se mi parli meccanicamente che regge più watt, che regge più vento, tutto quello che vuoi, la bellezza, ti posso dare ragione. Ma stiamo parlando di prestazioni, o come dicono il continente, prestazioni. Ma infatti ho visto il filmato che mi hai mandato, che hanno fatto un paragone tra un'antenna e l'altra. Quello lì l'ho mandato a Cantone, ho detto guardate i video, non sono palle, se c'è questa poca differenza, il resto ti do ragione, è bella, è carichi watt, vento, cioè quello sì, senza ombra di dubbio rispetto alla Game Master, ok? Ma in prestazioni non è che ci sia tutta questa differenza, capito? E loro guardano che la Game Master è un'antenna fatta così, no, o questa che ho io, ho costruito, ma io ti posso vedere che non, come prestazioni non c'è un granché di differenza. Oh Lu, quell'antenna lì è stata fatta da gente che lavorava alla Mantova, praticamente erano degli operai della Mantova quelli che hanno fatto la Grazioli, quindi cosa hanno fatto? Hanno solo migliorato la struttura, hanno fatto in acciaio certi pezzi eccetera, hanno migliorato le cose che andavano male nella Mantova 5, che si arrugginivano e cose, le hanno fatte tutte in acciaio. Quello è il bello, che è un'antenna che dura nel tempo perché è bella robusta, i tubi li hanno messi più grossi, capito? L'hanno irrobustita, tutto lì, l'hanno solo modificata, ma quella lì è la Mantova 5 di un tempo, mi dà grazie, di cosa ti credi che sia? Prevista, allora. Per il tempo non so dirti, per il vento ho visto dei video che comunque supporta, però per il tempo, essendo un prodotto nuovo, quello è tutto da vedere, capito? Perché minimo uno per giudicare un'antenna così devono passare, gliene vuoi dare 5 anni? Almeno minimo, poi la smonti e la controlli, almeno 5 anni, poi dopo 5 anni puoi dire, ecco, caspita, ancora in perfetto stato. Allora puoi dire che è un'antenna che dura negli anni come la Mantova, possiamo dirlo della Mantova quello. Lu, risaputo che l'acciaio è un materiale molto più robusto dell'alluminio, praticamente è risaputo, dai, che dura di più. Quello lì è, diciamo, è sottinteso che duri di più, perché l'hanno fatta in modo che durasse di più, l'hanno fatta, l'hanno irrobustito i tubi, li hanno fatti più grossi, li hanno messi più grossi i tubi, li hanno fatto pezzi in acciaio, tutta la bulloneria in acciaio, le fascette sono in acciaio, capito? È quello che conta. Chi li pesa? Ho già. Basta isolare bene le parti, per esempio l'unica che ho avuto io di Mantova, la 1, l'unica cosa era si era dissoldato il filo da dentro. Infatti dopo un po' di anni che sono andato a trasmettere stazionaria a 1000, ho detto che strano, eppure l'antenna sembra a posto. La smonto, svito il connettore e me ne vado al connettore uscirmi in mano. Non se ne farà da me. E poi bisogna 6 chili. Sì, è vero, pure tu lo sai. Indomina, carino, vabbè. E così è, 6 chili pesa. E poi bisogna avere 6 dura. A che se noi la battiamo in campagna mia che atta l'aria di Rumari e ti rossireggia, dura tanto la Mantova. Guarda che io la Mantova l'ho avuta, lo so, da lì. L'ho avuta prima di mettertela tu la Mantova, quindi. E ce l'avevo, la Mantova ce l'avevo 12 anni io, poi l'ho tolta perché per i radiali, ma se volevo la mettevo a posto. Non mi sono stufato perché l'ho riparata una volta, me l'ha riparata Fabrizio, me l'ha rifatta, mi ha rifatto tutta la piazza dove attacca il PL, ci ha messo l'attacco del PL femmina nuovo, ha messo il filo più grosso all'interno, l'ha tutta modificata, e scia che è una bomba. E stazionari è zero, proprio poche, uno massimo. Quindi non so com'era la Mantova, però se voleva scesa ogni tanto, pulita e fatta, perché se non li fa la manutenzione ti batti buruvista. Se arrugginisce il punto dove si attacca il piede. A me la salsedine mi ha distrutto una Mantova turbo, distruttami, mi la farà avvocato, 3 volte mi ha giocato la Mantova turbo, che mi sossidava sempre. La mia 27 L ce l'ho dovuta buttare a chi me ne farà duca in terra, che mi si è ossidato il bocchettone di l'antenna, mi si è ossidato e me ne farà durgare in terra. Cazzo, bongo la Mantova 5 ed è ancora sopra, però non lo so in che condizioni è, perché non ci sono più io in campagna. L'antenna adesso c'ha 14 anni, c'ha, e io l'ho lasciata lì che c'aveva 2 mesi, però non lo so in che condizioni era Mantova 5. La 5 già durava di più, la turbo un po' di meno, c'aveva dei difetti che entrava acqua eccetera, c'aveva dei difetti strani, anche a, come si chiama, a quello di Porto Torres, a Tigre, a Sandro le aveva fatto difetto quell'antenna. Sto dicendo, 3 volte nell'ho scesa, gli ho rifatto il piattello dove ci sono i radiali, gatto, nulla, sempre la rugginia. La Mantova turbo aveva più difetti, invece la 5 era più perfetta, durava di più. La scendevi dopo 5-6 anni che ce l'avevi, la scendevi una pulita e poi la ripiazzavi, andava sempre bene. Guarda, quella di Lucca l'ha messa a posto e sta ancora andando. Lo so, dipende da dove la piazzi. Cazzo, in campagna mia, cazzo, non ne durava l'antenna, no? Perché era la salsedine proprio che saliva l'aria del mare, mi si cremava l'antenna, cazzo, che tu manco ti immaginavi. Perché dice l'altura, e magari col maestrale qualcosa si porta la salsedine, certo. Avanti. Infatti. Vedi, se avessi avuto la Game Master in campagna, sarei stato a posto. Un cavolo nella prima scesa e sarebbe durata chissà quanto. Chissà perché io la Mantova turbo l'ho usata, buonasera, la Mantova turbo l'ho usata roba di 12 anni e il piattello non si è mai arrugginito, oggi come oggi è conservata col piattello lucido, non dico come il giorno che l'ho piazzata, ma abbastanza efficiente. Buonasera a tutti. Ciao Gio. Giulio, agli punti però, non a Filigheddu. Se tu la piazza a Filigheddu, io ce l'ho dovuta buttare a un certo punto. Probabilmente avevano fatto una partita di piattelli e si arrugginivano. Quello che io non si è arrugginito, per cui si è appena scolorito, ma non arrugginito. Dunque il contatto è perfettissimo sempre. Io l'ho tolta solo per il semplice motivo che ho spiegato tante volte. Perché? Perché il vento fischiava troppo i radiali, le fischiavano. Poi per quanto riguarda la Grazioli, sicuramente è una gran bella antenna, però consideriamo anche il costo. La Mantova Turbo 140 euro, la Grazioli 250, 280 a seconda di dove la compri, no? E i radiali sono lunghi, 2,75 m. Fate il conto quanto è grande questa cosa. Bellissima antenna, un guadagno superiore probabilmente a tutte le altre antenne, però è sempre una esagerazione. Premesso che è un'ottima antenna, non ci sono dubbi. Vai Luca. Sì, infatti io stavo, poi giustamente chi come te che vuole dire radiali eccetera, qui si sono ancora più lunghi. Ma infatti io stavo dicendo a Gianni che come ti arrivi, siccome l'ho presa io, è un usato, ma è nuova, siccome ho detto, è un'occasione, però come arriva la piazzo, faccio il video che devo fare e la metto in vendita, capito? La smonto la metto in vendita. Ma io ho visto tanti video confrontando sia la Mantova 5, la Mantova Turbo, la Game Master e anche la Grazioli, e devo dire che non c'è tutta questa grande differenza di segnale fra un'antenna e l'altra. Ad esempio dalla Game Master c'è un punto S in più. Tu mi dirai, ma è molto un punto S? Sì che è molto, certo, ma il segnale della Game Master è eccezionale considerando il tipo di antenna che è. Poi se parliamo anche di costi, devo dire che anche quella è troppo cara, perché è un tubo in fibra di vetro con un pezzo di filo dentro, niente di più, questo sì. Però io, se dovessi campare 100 anni, userò sempre la Game Master, perché per me è un'ottima antenna, non devi accordare, non ti crea problemi di stazionarie, non fa TVI, allo stesso tempo non ci sono radiali e i volatili non si posano sopra, tutte queste belle cose. Insomma, ci sono dei vantaggi abbastanza evidenti. A me piace, la verità. Vai Gianni. Ciao Giulio, ciao. Sì, vabbè, sì, è una bella antenna la Game Master, come segnali, dà dei segnali ottimi, perché io l'ho avuta, stazionarie zero, si muove appena appena largo, ma proprio poco poco, in tutti i canali, ed è a larga banda, perché vai anche in altre bande, stazionarie non ce ne sono, capito? Se ci sono, ci sono 1.1, 1.2 massimo. È una bella antenna, sì, però la Mantova Turbo ha dato problemi a tanta gente, però magari tu la zona che sei tu magari se lo si dire non ne arriva, e quindi tu sei a Dama, tutto dove la metti, anche tante volte a Porto Torres per dire ha dato problemi a Sandro Tigre, si arrugginiva tutto il piattello sempre. No, a me mi ha dato, l'unico problema che mi ha dato, ma l'antenna era sempre performante, l'unico problema era che sì, interrompeva il problema del cortocircuitare l'antenna, e cioè quello che occorre per la corrente elettrostatica, però nonostante che si interrompeva quello, l'antenna era sempre efficiente, sempre 1.1, sempre 1.1 su tutti i canali, di tutta la banda praticamente. Era un'ottima antenna. Del resto basta vedere com'è la struttura, il primo tubo, il sotto, il primo elemento 4,5 cm di diametro, con uno spessore abbastanza efficiente, roba di 3 mm, poi a seguire sempre andando e calando fino all'ultimo radiale, quello del cimino. Tu pensa che ho ancora il funghetto che c'è in punta all'antenna, io ho ancora quello, ti puoi immaginare Gianni? Sì. Vabbè, erano belle antenne quelle. le mantova sono state sempre il top, poi ti dicono quello che vogliono, ma come la mantova poche antenne sono nate. Comunque, andiamo avanti. Luca, perché non ne la vendi a quella persona là? Ha detto che se però al momento no, al momento no, così che io l'ho detto, capito, poi che non si lamentino quando parte fuori e dico cazzo non me la dica, non me ne faccio niente, ce l'ho appoggiata in un angolo su, per cui non mi serve, però mi piace tenerla. Io sinceramente sono geloso delle mie cose, non ho mai venduto niente, perché grazie a Dio non ho avuto nemmeno necessità di vendere niente. È un po' come ad esempio l'MC60, non ce l'ho l'MC60, nuovo di zecca praticamente, se tu lo vedi, ma non lo do, non mi serve, non lo userò mai, ma non lo do, perché mi piace averlo, tutto lì, ho Gianni, Luca e Natalino, vai Natalino. Ma vabbè, riprendo io, ma io se vedo la radio, Giulio, faccio questo esempio, ho una radio HF, ok, e c'ho l'MC60 e non ho intenzione di comprare altre radio HF, è inutile che mi tengo un MC60 soprammobile, cioè per il gusto di averlo, io vederlo così lì e poi vedo il baracchino, cosa dico, che senso ha? Cioè, io non sono di questo parere, capito? Soprattutto con un microfono che devi usarlo solo con quelle radio lì, capito? Vederlo così, sinceramente, non è questione di soldi, è questione di vedere una cosa che non utilizzi, a meno che, non hai intenzione di comprarti un'altra radio, capito? Per quanto riguarda l'antenna, tienila, perché se ti si dovesse spezzare quella che hai, hai un'antenna di scorta comunque. In quel caso di scorta ne avrei già un'altra, sempre fatta sul sistema e sulle misure della Game Master, che fatta da me, ce l'ho quella, per cui non metterei mai più quella con il radiale, perché ripeto, la notte quando c'è molto vento, come ieri ad esempio, che era micidiale il vento, avrebbe fischiato, avrebbe fatto un'orchestra da camera sinfonica a tutto piano, per cui non la metterò per quel motivo lì. Se no, a me l'antenna da Mantova Turbo mi piace, mi è piaciuta tantissimo, e devo dire che sentivo benissimo anche gli HF su tutte le frequenze, a differenza della Game Master, che su quelle frequenze è sorda. Sì, senti lo stesso, però è con segnali scarsi. Se prima sentivo 9 più 10 ad esempio dall'est da fuori, con la Game Master potevo sentire 6, 7, 8, non di più. Ripeto, è più sorda, però la Mantova Turbo per me era eccezionale, anche perché se accordavi potevi andare anche in 45 metri tranquillamente, non c'era problemi, e ce lo dimostrava soprattutto quell'amico che è morto di Alghero, che andava, che non mi ricordo il nome nativo, che andava non in 45 ma anche in 88 andava, quando era possibile andarci naturalmente con le frequenze. Gianni, come si chiamava quell'amico di Alghero che è morto? Con l'anziana, sto dicendo, quello che era dell'aeronautica. No, era giovane, era. Mi sembra che avesse il 140 o qualcosa del genere. A Pinangelo è di Zenzio. Ah, Pinangelo. Esatto, Pinangelo, sì. Lui ci andava tutti i santissimi giorni, sia in 45 che in 88. La notte tu lo sentivi tranquillamente, l'88 non c'era problemi. Per dire, la Mantova Turbo ci potevi andare, ci arrivavi, e se volevi ci potevi anche trasmettere, a differenza della Game Master, che quello non lo puoi fare, al massimo puoi andare in 10 metri ascoltare in 10 metri, anche trasmettere naturalmente, però anche quella, ripeto, per come è costruita è molto ma molto cara, perché ci sono posti che la vendono anche 180 euro mentre in altri posti anche 150, che poi lo capisco queste differenze da un negozio all'altro, però ognuno ognuno fa i suoi prezzi, chiaramente non possiamo impedirlo a nessuno. Vai Luca. Infatti, ognuno fa i suoi prezzi, hai detto bene. Ma lì non è la parte elettrica che costa, è la resina che ti fanno imbagare. C'è la pure da resina, c'è la pure da progettazione che hanno fatto, chissà quanto tempo hanno impiegato con strumenti elettronici sofisticatissimi per poter appunto salire e riuscire a calare e programmare un'antenna del genere, non lo so, sicuramente si fanno pagare il progetto, questo è fuori dubbio, però giustamente è un loro progetto, dicevo voi, se lo vuoi me lo devi pagare così, se no lascia prendere e vai da un'altra parte, è chiaro? Vai Gianni. Beh, un po' tutto ti fanno pagare, la progettazione te la fanno pagare sicuramente. Io non ho lo stesso parere di quell'antenna, andava bene come, ma come struttura, non, perlomeno piazzata qua, è troppo in alto, guarda questa antenna qua non balla nulla, manco col vento di maestrale forte, si piega per appena, quella lì si piegava quasi per spezzarsi ogni volta. Poi una volta mi ha chiamato il fratello di Antonio Riserva, mi ha chiamato e mi ha detto, oh già, mica c'è l'antenna spezzata, è praticamente tutta giù. Sono andato a vedere, pensavo fosse uno scherzo, pensavo, no, che si piega così col vento, sono andato a vedere la trucca davvero. Sì, ma capisco che alle volte può riuscire, un'antenna può riuscire e può anche non riuscire, però adesso tu sei in alto, vai d'accordo, ma non sei il solo in alto, tu prendi a Gianfranco, Gianfranco è in alto quanto te, anzi più di te, perché abita a Monteoro, in quella zona lì. L'antenna non si è rotta, il palo gli ha piegato, il tubo gli ha piegato il vento, se lo può confermare anche Natalino, diglielo tu Natalino, cosa è successo all'antenna di Gianfranco, la Game Master anche lui. Lumbaro l'ha pigiato. Notificare, esatto. L'antenna non si è fatta nulla, la mia cosa ti credi che è in basso, guardala bene dov'è l'antenna mia. È quello di un'opera lirica. E il vento ne ha preso. Quanto ne ha preso quella di Giulio, però la mia è in alto di brutto. Adesso e vento l'ha pigliato un bel, e il fatto che magari non è riuscita quell'antenna, non l'abbiamo piazzata come doveva essere piazzata, perché sennò già regge l'antenna. Tu dammela qua, Natalia, la tua la mettiamo qua da me, tiro su tutti i pali e vediamo quanti mesi dura. Ah, io, ma se mi c'è anche questa storia del palo, così lo barro di Girimella era, ma anni a venimo di cazzati, cazzo piegato il palo e non ha facciato l'antenna, ma che poni un palo di mezzo centimetro, papuzza lo bigia un palo, ma di cosa parliamo, dai. Gianfranco ci aveva i pali come si deve, che non è uno scemo qualunque. Io sto parlando di Gianfranco, quello che è radiamastore, mi. E penso che non abbia messo un palo fino. Io penso siano pali d'acqua come quello che ho io. Il mio è 4 metri alto come il palo. Ti sto dicendo che non è così. Vuol dire che c'aveva qualcosa, quel palo era sottile. Ha detto, mettiamola qua una Game Master, vedi, posso vedere quanto dura. Ma vai. Se metteva un palo d'acqua come quello della Budi, non si sarebbe piegato. Ma tu li hai visti i miei? Sono un palo innocente e l'altro da 40 che entra dentro, preciso, preciso. Io li tiro su tutti e due, anche con la mantova, non è gocca, ma con un bello. Capito. E sono 7 metri fuori dal tetto, solo di pali. Ma di cosa parliamo? E ti faccio vedere senza tiranti, mai hai messo tiranti io con questi due pali qua. E poi il palo mi dici e non si rompe la Game Master. Fluia. Quindi disingazzate me. Avanza, sono cazzati. Io ti sto dicendo che ha detto che gli ha piegato il palo. Gli ha piegato. E l'antenna non si è fatta nulla. E l'ha pigliato di batturati chi s'antenna di vento. Con tubi comprati lì da Marcello, fatto il foro, saldato il dado in acciaio inossidabile con bullone relativo, sempre in acciaio inossidabile. Quando la dovevo abbassare mollavo con tanta tranquillità, perché il bullone svitava tranquillamente, perché era dell'acciaio inossidabile. E il tubo scendeva, nonostante che ce l'avevo alto 6 metri, sto parlando di quando avevo dall'altra parte la mantova turbo, sicché 6 metri più la mantova turbo, 7 metri, totale 13 metri, e siamo lì. Eppure non ho mai messo un tirante e i pali non mi si sono mai piegati. Vai Gianni. E tu hai la zona buona giù, magari è una zona che è più diciamo riservata, ma non so, tante volte anche la zona dipende, se sei al vento, se sei, per dire, se tu vieni qua quando c'è il maestrale da Succhi, è il maestrale che batte a casa, sicuramente anche da Lucca. Già, lascia perdere. Niente, sto dicendo che qua dura da Natale a Santo Stefano, una rimossa con tutti i pali fuori. Guarda che vabbè, un paio di anni fa, 2-3 anni fa, c'era stato un tornado qui alle Punti anche, e ha danneggiato le antenne di Walter. Tu mi dirai, ma forse era da quella parte? Sì, probabilmente era da quella parte, però ti posso garantire, qui il vento tira fortissimo. Primo perché non ci sono case più alte di un'altra, perché hanno tutti la massima altezza, deve essere quella, non puoi costruire tu una casa con un'altezza superiore, e quando sei sul tetto, anzi addirittura se nel terrazzo, vedo tutto il mare, io vedo tutto il mare, il che significa che è tutto aperto, il vento arriva d'impeto proprio, senza nessun problema, e il discorso è questo, Gianni. E aspetta un attimo giù, e a me perché non sembrava tagliato a seghetto, l'ho trovata, meno male che c'era il tirante, perché l'ho trovata coricata sul tetto la mantova, io l'ho tagliata a moletta, rubaru. Poi magari ci possono essere dei posti dove il vento può essere anche più forte, però anche ieri, o avanti ieri che fosse, quando era ieri notte, no avanti ieri notte, io dal meteo ho sentito che il vento poteva arrivare anche a 140 km orari, questo ho detto dal telegiornale della Sardegna alle 7 e mezzo del mattino, tutti i giorni io lo ascolto, tutti tantissimi giorni, mi metto le cuffie quando sono ancora a letto e ascolto il telegiornale della Sardegna con relative condizioni del meteo, e Matteo Vidivi, o come si chiama, o Tidivi, ha detto che il vento sarebbe arrivato anche a 140 km l'ora. A quanto si è arrivato quella notte non te lo so dire, però ti posso garantire che qui era molto ma molto forte, perché nonostante i vetri qui doppi, vetrocamera che ho nelle finestre, il vento si sentiva forte. Vai Luca. Ma se ce l'hai bassa tu giù, io ho visto che qua quelli che avete la Game Master qua in zona o casa tua sono tutti in terra, sono tutte basse. Cioè, cosa, l'antenna, provate a salirla, invece di l'altezza di uomo per svitare il PL. Da buoni dura la ripulsa. Invece sono tutti quarte quarte, oh Gianni, avanti. La mia non è qua, da vai da rabe come te, va. Ehi, è così. Io praticamente ho 5 piani più la mansarda, quindi immaginati tu, c'è là 5 piani più l'attico, immaginati quanta altezza c'è il mio palazzo, più ci ho messo 2 metri di palo, vabbè 8 non li ho saliti, ne ho salito 5, più un'antenna, immaginati quante asse. Sì, poi abbiamo anche un'altra testimonianza, così per giudicare anche la Game Master. E c'è Eugenio Caporto Torres, che l'ho sentito anche ieri, l'ho sentito, e c'era sempre entrata l'antenna. E lui a Porto Torres, penso che a Porto Torres il vento soffi forte, e non è poco il chivi, no? Per cui lo sappiamo. Ripeto, ci vuole anche fortuna, poi dove magari una partita di Game Master che ci si può spessare come niente, mentre altre magari che oscillano tranquillamente e funzionano nel tempo, non c'è problema. Vai Luca. Io se metto una Game Master qua la devo mettere chiusa proprio a filo di tetto, o giù, perché se io ti faccio vedere che apro tutti e due i pali, sono 7 metri di pali, immaginati quanto esce, ti faccio vedere che dura poco. La tua, mettiamo quella di Natalino, visto che sono piazzate bene, come dite voi, la mettiamo qua a 60 anni. Voi cosono, allora amico, ma non abita a Porto Torres, abita fuori Porto Torres, Eugenio abita nelle campagne di Rivioni, quindi con Porto Torres diciamo che ci vuole un bel po' per arrivare a Porto Torres, abita proprio all'interno, io so proprio dove c'è la casa, perché entravo a fare le consegne lì, quindi non so dove abita. Faccio il nome dell'amico perché è un po' di tempo che non lo sentiamo, però così mi ha detto, così mi sto riferendo anch'io adesso, ma è nata lì. E infatti anche un po' che non lo sento, ma aveva detto anche lui che gli era successo così, ma te lo puoi immaginare, il vento mi ha piegato il palo, gatta, e l'antenna non si è fatta niente. Giù. Quello è Gianfranco, naturalmente. Gianfranco non è certamente uno sprovveduto, no. Già ne ha messo le antenne e le piazzerà ancora, per cui non c'è problema. E l'ha detto, lo so che l'ha detto. Gianfranco l'ha detto queste cose. Gianfranco è una persona seria, non è un bugiardo. E l'ha detto, dice, si piega, che è una cosa incredibile quanto si piega. Però l'antenna non si rompe, non si è rotta, si è piegato il tubo. Poi, per quanto il tubo possa essere sottile, stai tranquillo che è sempre più forte dell'antenna, questo ne sono più che convinto. Tu cosa dici, Luca? Lo stai dicendo tu stesso, se il tubo, il palo è più forte dell'antenna, non l'ho fatto per piegarsi il palo. E come io ti dico, mi ha piegato il tubo innocente e la gambassa non c'aveva niente. Ma lascia Billio, Giulio. Poi tu lo sai, i prototipi che ho fatto io su queste antenne, quante me ne ha rotto facendo prototipi, finché non ho trovato la soluzione, capito? Ma intanto mi ne fasciato, ma senza tirarli su, messi lì nel tubo, a raso terra. Nel primo momento li truncava, allora studiavo una maniera diversa, finché non ho trovato la soluzione. Ma che tu mi dici che mi piega un tubo innocenti e l'antenna intera? Io non lo so che cosa lui ha messo, però per logica un tubo, per quanto possa essere sottile, sicuramente dovrebbe resistere a un vento superiore ad un'antenna. Ma l'antenna perché non si rompe? Perché oscilla, perché si muove. Se tu ne metti un tirante, all'antenna se va a crepa, come è successo a Sandro, a Porto Torres. Poi un'altra cosa volevo dirti, ad esempio, qui a dei punti, per farvi capire che il vento qui è fortissimo, quando soffia qui è forte, mi ricordo Giovanni Ciclone, non so, quei più anziani della frequenza si ricorderanno, aveva la Mantova 5 qui in campagna, dove c'è il campo della Viglia, da quelle parti lì lui aveva la campagna e aveva l'antenna. Un giorno mi telefona e mi ha detto, Giulio, il vento mi ha piegato il palo, l'antenna è intatta e il palo dice piegato. Questa è la Mantova 5 però che aveva allora. Oh Gianni, ci sei? Sì, perché la Mantova 5 è pesante come antenna, magari il vento ha fatto sì che oscillando ha piegato il tubo, ma la Game Master è un'antenna leggerissima. Poi per quanto riguarda Eugenio, non abita a Porto Torres, abita fuori Porto Torres. Io so dove abita perché faccio pure consegne e quindi so anche dove c'è la casa Eugenio. Ed è all'interno di Lioni, non è a Porto Torres, quindi è molto riparato. Vabbè, riparato quando vuoi, ma sempre a Porto Torres, sì, dove c'è il mare, si sa, c'è aria libera, o Gianni, per cui il vento soffia e non c'è che dire, il discorso è sempre quello. Comunque, ripeto, ci vuole anche un po' di fortuna. Quante volte abbiamo preso noi lo stesso oggetto a una persona che è durato anni e a un'altra magari gli si è rovinato in brevissimo tempo. E purtroppo gli oggetti sono così, i lavori sono così. Può darsi che magari a chi gli si rompe abbiano avuto una partita di vetroresina non abbastanza buono o flessibile, non lo so da cosa può dipendere. Io so solo che può andare benissimo. benissimo anche così. E io devo essere sincero, come ha detto Luca poc'anzi, e ce l'ho nel terrazzino, è bassa, sì è vero, è bassa, però davanti a me non c'è nessuno, non c'è una casa più alta della mia, non esistono, perché il piano regolatore non te lo consente di fare una casa più alta. Per cui io mi metto la sedia, allungo la mano e svito il PL, ecco la comodità anche del mio terrazzino, a differenza di dove ce l'avevo prima, che sarebbe stata prima di tutto 3 metri più in alto, perché la casa dall'altra parte è 3 metri più alta, perché c'è tutta la piovenza del tetto, e poi c'era un tubo da 6 metri, ma non ho voluto più mettere da quelle parti, ormai sono già da anni qui nel terrazzino della mansarda e mi va bene così, e la lascerò sempre lì, anche perché non ne ho più voglia di stare io lì a sgattaiolare sul tetto per l'antenna, ma che me lo faccio fare? Oh, vai Luca! Beh certo, è una tua comodità, una tua scelta, che come hai detto tu metti la sedia e svitti il PL. Ma prova a sollevarla, metti un palo di 6 metri, ma 6 metri dal tetto, non 6 metri dal terrazzino e con 4 metri di tromba ascensore, come dicono molti, c'è un tubo da 6 metri e 4 metri sono ancora da un muro, però di cosa parliamo? Metti un tubo 6 metri fuori dal tetto e poi l'antenna. Io parlo sempre così quando si parla di antenna fuori dal tetto, non un tubo di 5 metri e 4 metri e mezzo sono ancorati a un muro, però con un muro di 4 metri e mezzo, cioè, quello non è che l'antenna sta scendendo dal tetto, capito? E così è, o giù, così è. E purtroppo io non ce la metterei mai qua, la mia so che dopo vari prototipi non si dronca, ha passato anni ormai, canna da pesca, parliamo di canna da pesca e antenne autocostruite, non parliamo di antenne da 200 euro di zio, capito? Con un terzo della spesa ed è ancora sull'antenna, cosa che molte Game Master le ha fatte fuori invece. Perché tu le avessi polietilene espansa all'interno? No, non le ho messo niente, è completamente vuota la mia, ma le ho fatto un altro lavoro, cosa c'entra? Però è colorata, capito? Ormai quanti anni c'è? Quanti anni c'è quella di Tore? Eppure è ancora Givi, anzi io la volevo tirare su a 6 metri, almeno 5-6 metri, però giustamente la scelta è stata la sua, ma comunque sia io la vedo da qua quando la piega il vento e uiuia, però grazie a Dio ancora non gliela rotta, sempre in canna da pesca. E tu mi vuoi dire che una Game Master piega un tubo? Allora se tu metti un tubo da 5 metri, da 20, diametro 20, a 5 metri, con un basamento magari di 50 cm sotto, senza tiranti, allora l'antenna facendo vela muove anche il tubo, ti posso anche credere che l'ha piegato, ma solo in queste situazioni però. Ma Perché io non ce l'ho avuta con la canna da pesca, quella che avevo prima della Game Master originale che ho adesso, avevo un'auto costruita, vi ricordate? Eppure l'ho tenuta 3 o 4 anni e non si è mai rotta, ed era una canna da pesca da 18, da 16 euro comprata alla Decathlon, 16 euro si può immaginare, e l'avevo costruita io sempre dietro le misure della Game Master, naturalmente, perché avevo anche la Game Master che poi io me l'ho disfatto e poi l'ho riavuta di nuovo sempre da originale, e ho dato in cambio, ho dato l'auto costruita, perché tanto andava bene così, è un discorso che ho fatto tante volte, no? Eppure non mi si è rotta, nonostante che era una canna da pesca da 16 euro comprata alla Decathlon. Ne ho tolto le fascette, che c'era qualche fascetta, non più di tanto, e le avevo messe quelle in acciaio inossidabile, quelle sì, le avevo sostituite, ma per il resto era né più né meno la Game Master che ho adesso, perché le misure ne le avevo ricavate io dall'antenna originale che avevo in un primo momento, che poi non ho mai usato, mi ero disfatto e poi invece è tornata da me, tutto lì natalizio, sì. I lupi ci sono, l'ho fatto anch'io l'affare della canna da pesca, l'ho fatta fuori dall'antenna, qui dalla finestra, e funzionava fuori dalla finestra, dimmi giusto. e dovrei averlo in campagna io tutto l'impianto di quell'antenna. La canna da pesca è che non serviva. Allora Giulio, spiegami una cosa, tu sai il prototipo che ho fatto io, no? Di canna da pesca, compravo la canna da pesca da Decathlon, da 8 metri, ok, poi il cimino lo sostituivo, eccetera, eccetera, perché giustamente non passava il cavo, no? Mettevo qualcosa di più grosso. Canna durava 2 giorni e il vento la troncava, cioè, e a te non ti ha rotto la canna da pesca, spiega un motivo, cioè, a me me la troncava e a te no, come mai? Quella che avevo preso io è che ne ho un'altra di nuovo, fatta sempre su quel tipo di canna da pesca, sempre da 16 euro, era da 7 metri e anch'io avevo tolto il cimino perché il filo non infilava, nonostante che avevo utilizzato un filo da un millimetro e mezzo quadro, per cui anche se avessi voluto utilizzare un filo più grosso, ad esempio da 4 mm, non ci passava. Però il pezzo che mancava l'avevo recuperato alla base usando un pezzo di tubo PVC, quello da scarico di lavandino, che è grossissimo, con un diametro da 4 cm, una cosa del genere, e avevo utilizzato come parte bassa dell'antenna, che poi tra l'altro si collegava anche al palo, quel tubo lì, e avevo recuperato quello che mi mancava in altezza, perché giustamente essendo da 7 metri non poteva bastarmi, perché 7 metri era lo sviluppo totale quasi di tutta l'antenna, che in realtà sono 6,90 metri. Avanti Gianni. E vabbè, comunque stiamo ancora parlando, vuol dire che l'antenna non resistito al vento e è finito il gioco. Ma anche io lo facevo Giulio, quei lavori lì con i tubi d'acqua, perché intanto la base potevi lavorare solamente, tagliare il cimino finché non usciva il cavo, l'ho fatto, ma sei prototipo, non sono aggiovato io. Lavori nella base, metti i tubi più grossi, rinforzi qui e là, ma quello che troncava era la canna da pesca, sicché Giulio, cosa vuol dire? Che quella troncava e a te no, nonostante tutti e due lavoravamo alla base, è il resto che troncava, non la base non entra nulla. Vuol dire che a te il vento non è come qua. Boh, sarà pure così, come dici tu. Io so solo che l'ho utilizzata e mi è sempre andata bene. Poi l'avevo consigliata anche a Franco, l'avevo consigliata a lui nel giro di un paio di giorni dopo che io gli ho dato le misure, l'indicazione a consultare il computer, lui ce l'ha costruita e ancora oggi quando entra Franco esce molto ma molto bene, solo che lui ce l'ha piazzata in una posizione un pochino diversa da come ce l'abbiamo noi, eccetera eccetera, però nonostante tutto la resa ce l'ha, perché ce l'ha. Va bene, signori belli, io vi ringrazio per il QSO e per aver fatto il momento della terapia. Ci sentiamo, dai. Ciao Gianni, grazie a te, grazie a te Luca, grazie a te Natalino. Saluto da tutti, ascolto il vostro Fidalino e dopodiché vado per la terapia. Vai Natalino. Grazie per essere entrato Giulio. Buona terapia, buon proseguo. Alle prossime, riprendi Gianni. Ciao Giulio, grazie per il QSO. Buona carica quando la fai, dai. Ci sentiamo, avanti Luca. Credo anch'io che mi stanno chiamando da mezz'ora. Ciao Giulio, buona cena, buon tutto, a domani, ciao a tutti. Ciao ciao a tutti, dai, chiudo anch'io. Ciao Natali, ci sentiamo, buona serata. Ciao a tutti, alle prossime. Ok, vi saluto di nuovo, ciao a tutti, chiudo anch'io.